Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, vi parlo questa sera di un importante premio letterario, forse il più celebre in Italia e anche uno dei più anziani, e cioè il premio Strega, che fu fondato nel 1947 da Maria Bellonci, una grande letterata che lo gestì per molti anni fino alla sua morte nel 1986. Le successe Anna Maria Rimoaldi, scomparsa a sua volta nel 2007. E adesso esce un libro di Stefano Petrocchi, che con la Rimoaldi aveva lavorato, e direttore del Fondo Bellonci, curatore delle opere della scrittrice, nonché segretario del comitato direttivo del Premio Strega. Il libro si intitola La Polveriera, è pubblicato da Mondadori, 196 pagine, 17 euro. Il libro è in fondo di un genere atipico, non è un libro di storia, non è un romanzo, e semmai ha un qualche tratto autobiografico, perché il narratore si presenta appunto nel libro come un responsabile del premio che, attraverso flashback e un espediente narrativo, ci offre un quadro della storia dello Strega, della sua influenza e del ruolo giocato dalla Rimoaldi, una donna molto autorevole, rispettosamente chiamata nel libro sempre soltanto come il capo. E di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Stefano Petrocchi. Buonasera. Stefano Petrocchi, questa Polveriera è più un libro sul premio Strega, sulla Bellonci o sulla Rimoaldi? Ma io l'ho scritto intanto per ricordare Anna Maria Rimoaldi, che è la persona con cui ho cominciato a lavorare per il premio. Però Anna Maria Rimoaldi aveva una vita così tanto identificata con il premio Strega che non ho potuto non ricordare anche il contesto in cui lei ha operato, e quindi il premio e anche naturalmente gli anni di Maria Bellonci che sono precedenti. E si parla molto infatti del premio e anche delle vicende spesso convulse che caratterizzano ancora oggi questo premio. A un certo punto, per esempio, lei parla di quella che è considerato un'abitudine, cioè che ci siano degli ordini di scuderia delle grandi case editrici per pilotare un po' il premio. Ma le case editrici fanno campagna elettorale, una vera e propria campagna elettorale, quindi cercano di convincere i giurati, i votanti, che sono tanti, sono 400 gli amici della domenica che assegnano il premio, a votare ciascuna il proprio libro, e lo hanno sempre fatto. Ecco, mentre stavo pensando di raccontare un po' la storia di Anna Maria Rimoaldi, venivano fuori dei documenti dall'archivio del premio che raccontavano proprio quest'altra storia qui, che è nata insieme al premio Strega nel 47, ed è il motivo per cui ho intitolato il libro La Polveriera, perché Maria Bellonci per prima si rese conto appunto di questo, di aver architettato quella che lei definiva una polveriera. In questa lunga storia del premio Strega c'è un anno nel quale si verifica quella che lei definisce la tempesta perfetta, il premio del 68, l'edizione del 68, un'edizione nella quale salta, per così dire, il rapporto tra la vecchia società letteraria, scrive lei, e la nuova industria editoriale. Ecco, a che punto è questo rapporto? Il premio Strega come sta seguendo questo rapporto oggi? Ma in qualche misura la storia che oggi stiamo vivendo comincia proprio allora, comincia nel 68, e via via questa preponderanza dell'industria culturale sulla società, e l'editoriale sulla società letteraria, si è andata espandendo. Prima c'era una società letteraria intanto che contava meno persone e quindi era molto più coesa. Oggi i rapporti personali sono più laschi, e probabilmente anche questo è il motivo per cui l'editoria, l'industria ha un potere maggiore, un potere di persuasione maggiore. Prima di quegli anni, prima della metà degli anni 60, ho la sensazione, leggendo un po' le carte dello Strega, che naturalmente l'editore facesse sentire la sua voce, ma che fosse uno dei gruppi di potere di orientamento dei consensi intorno ai vari libri che concorrevano allo Strega, non quello preponderante, certamente non il solo. Contava l'Accademia, contava la critica letteraria, contavano i gruppi di scrittori. Oggi questi legami si sono un pochino più allentati, e resta, ma non solo nei premi italiani, devo dire, resta questa figura preminente dell'editore. Un legame che si è totalmente allentato è quello con la televisione. Lei se ricorda come all'inizio la televisione seguisse il premio, come la RAI fosse popolata da molti intellettuali. Oggi lei scrive: la televisione si accosta al premio come una partita di cricket a un congresso di astrofisica. Ecco, che cosa ha segnato questo rompersi del legame fra televisione e premio? Beh, in anni passati parliamo della RAI animata da uno spirito pedagogico che voleva non solo informare ma in qualche modo anche educare e rendere più colti gli italiani. Ecco, queste cose mi sembra che nella televisione contemporanea si siano completamente perse di vista. Naturalmente la televisione non deve fare sostituirsi alla scuola, all'università e agli agenti educativi, oggi non gli chiediamo questo, però mi sembra proprio che siano due mondi che comunicano con molta più fatica. Lei parla nel suo libro di pratiche e leggende collaterali al premio e poi addirittura di atmosfere sulfure. Ecco, perché questi particolari? Perché il premio Streghe è accompagnato da questa caratteristica? Intanto il perché è difficile da dire. Secondo me ci sono tuttavia queste pratiche, io parlo anche di macchinazioni, ma insomma dipende un po' dalle caratteristiche strutturali di questo premio, che è diverso dagli altri che c'erano prima e anche da quelli che sono venuti dopo, nel senso che il premio di solito è assegnato da un gruppo ristretto di persone che si riuniscono in una stanza e prendono le loro decisioni. Maria Bellonci l'ha pensato questo premio Strega come una giuria vasta e democratica. Erano già 170 il primo anno e poi sono diventati rapidamente 400, e 400 sono tuttora i giurati, e in mezzo a queste 400 persone c'è la critica letteraria, ci sono gli scrittori, c'è l'accademia, insomma le persone sono molte persone che tessono le loro tele durante lo svolgimento del premio, e spesso, come dire, fanno alleanze, si alleano naturalmente contro qualcuno e a beneficio di qualcun altro. Tutto questo crea a volte un ginepraio di progetti, anche così, alcuni vanno a buon fine, altri no, e fanno un po' la vita del premio e sono in qualche modo anche un elemento di interesse. Un premio che per queste ragioni, lei ricorda, è stato paragonato anche al Festival di Sanremo. In che senso? Ma quella fu una battuta del gruppo di scrittura che oggi si chiama Wuming e allora, quando concorse al premio con il loro primo libro, si chiamava Luther Blissett, ma l'ho sentito ripetere altre volte. Intanto c'è un fattore positivo: il premio Strega rappresenta in letteratura ciò che è qualcosa di estremamente popolare. Gli scrittori che vincono il premio mi dicono che il giorno dopo vengono riconosciuti dal tassista che li porta alla stazione, oppure che il verduraio sotto casa mette da parte per loro delle primizie, chissà cosa gli dava prima, mi viene da pensare. Ma il premio ha questa forte presa anche su chi non legge abitualmente. Insomma, sappiamo che il Festival di Sanremo è un appuntamento fisso anche di chi non segue la musica, e così è un po' lo Strega, e è un po' la sua forza, quella di andare oltre la società letteraria e oltre quelli che leggono, che in Italia, come sappiamo, non sono moltissimi. E lei scrive che un fatto che era assente il prodigioso, come la reggenza del premio sia rimasta saldamente nelle mani di queste due donne che abbiamo ricordato, appunto la fondatrice sua erede. Per gran parte della vita del premio, perché Maria Bellonci resta la guida del premio fino a quando non muore nell'86, e la Rimoaldi poi lo è stata fino al 2007. Quando Maria Bellonci architetta questa giuria vasta e democratica, decide, insieme ad altri amici con cui collaborava, di includere anche le donne, e questo accade in anni in cui il suffragio universale in Italia esisteva da appena uno o due anni. E c'è chi non, nella stampa del tempo, non mancava di far notare quella che definiva una bizzarria, cioè delle donne che esprimevano dei loro pareri sui libri in gara, e questo ad alcuni sembrava strano, e insomma era un segno di, all'epoca era senz'altro un segno di modernità. Il suo libro si conclude con un'appendice che porta, diciamo, la cronaca di tutti i premi Strega. Ecco, secondo lei, guardando a queste schede, guardando a questa storia che risale al 1947, il premio Strega effettivamente è stato rappresentativo della narrativa italiana, e c'è qualcuno che avrebbe forse meritato di vincere il premio Strega nello vinse? Sì, naturalmente c'è, la cosa interessante è che concorsero al premio questi autori che fra un attimo ricorderò, e lo persero perché lo vinsero autori altrettanto importanti. Chi non ha vinto il premio ci sono delle persone che oggi a sentirle nominare fanno tremare le vene ai polsi, parlo di Calvino, di Pasolini, di Gadda, ma insomma quando Calvino concorse la prima volta nel 52 perse il premio in favore di Moravia e quando Gadda concorse l'ultima volta vinse Guido Piovene. Insomma c'erano tali e tanti nomi e altisonanti della letteratura italiana in quegli anni che qualcuno, come dire, si è dovuto arrendere, ma insomma con l'onore delle armi. Grazie a Stefano Petrocchi, autore de La Polveriera. Buona serata. Grazie a lei, buonasera. E il collettivo Wuming, appena ricordato da Petrocchi, ha pubblicato con Einaudi L'Armata dei Sonnambuli, 796 pagine, 21 euro. Questo è un complesso romanzo ambientato in piena rivoluzione francese tra il 1793 e il 95. Rivoluzione della quale si offre qua uno spaccato particolare in una trama che si sviluppa in cinque atti, non a caso, anche perché uno dei protagonisti è un attore bolognese a Parigi sulle orme del grande Goldoni. L'altro protagonista è un medico dedito al mesmerismo, gli esperimenti scientifici in voga in quell'epoca per cercare di trasmettere energie e di modificare anche i comportamenti dei pazienti. E sullo sfondo del libro, anzi protagonista continuo del libro, è la plebe di Parigi, la plebe vandeana, protagonista appunto di questo libro e di una rivoluzione che avrebbe potuto avere un altro finale. Un romanzo romano e che ha qualche addentellato con l'editoria è quello di Isabella Borghese, si intitola Gli amori infelici non finiscono mai, è pubblicato da Giulio Perrone, 176 pagine, 14 euro, l'ambientazione varia, ma quella dominante è un autobus, il 60, una storica linea di Roma che collega Montesacro al centro. È una linea che naturalmente risente di tutte le difficoltà del trasporto pubblico, a partire dall'affollamento che induce certi viaggiatori, nel libro della Borghese, addirittura ad andare in pigiama ad aspettare la mattina il mezzo per non sgualcirsi troppo gli abiti che poi si cambieranno in ufficio o nella fermata alla quale scenderanno. E naturalmente la Borghese individua nella folla dei viaggiatori alcune figure, principalmente due, la protagonista Esther e l'altro protagonista, l'uomo senza volto. Accanto a loro troviamo la signora impertinente, la signora povertà, l'amico della pioggia, l'uomo dal suicidio premeditato, e le loro storie si intrecciano, in particolare con quella dell'uomo senza volto che per un incidente non riesce più a riconoscere le persone, ma che sarà però capace di un ultimo appassionato gesto d'amore nei confronti della donna che non ha dimenticato. Vi ricordo che dal 13 al 16 novembre torna a Milano Book City, che è giunta alla terza edizione. Questa è una manifestazione dedicata al libro e alla lettura, con una giornata il 13 dedicata in particolare alle scuole e all'università. Si comincia il 13 al Teatro Dal Verme con un incontro con David Grossman. Il centro della manifestazione sarà il Castello Sforzesco, dove tra l'altro è stato allestito un padiglione progettato da Michele De Lucchi, dove saranno posti in vendita gli oltre 900 volumi che saranno presentati nel corso delle tre giornate. A un paio di presentazioni ci sarò anch'io. E poi accanto alle presentazioni ci sono letture, compreso l'Inferno di Dante, e tantissimi altri appuntamenti raggruppati per poli tematici in tanti luoghi di Milano. Per vedere il programma molto denso vi segnalo il sito www.bookcitymilano.it. A un grande libro del Novecento, Il silenzio del mare, è dedicata una manifestazione organizzata da Galleria Bolzani a Milano, che dal 13 al 16 novembre ha un'esposizione su questo libro e dà anche la possibilità di vedere alcune immagini tratte dal film Il silenzio del mare, che era stato tratto appunto da questo capolavoro di Vercors, lo scrittore vissuto tra il 1902 e il 1991. La lettura del libro avrà luogo sabato alle 16:30 e la mostra chiuderà domenica. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Veniamo adesso a un tema di attualità, di drammatica attualità, un tema che ci preoccupa molto tutti, e cioè il virus Ebola. Lo troviamo nel libro di un famoso reporter di National Geographic, David Quammen, che si intitola Spillover, pubblicato da Adelphis, 108 pagine, 29 euro, ed è tradotto da Luigi Civalleri. Qui si parla naturalmente di virus, non soltanto di Ebola, ma in un modo appassionante e coinvolgente per spiegare la diffusione di quelli che hanno dato più filo da torcere in questi ultimi decenni all'umanità, a partire da Hedra. Spillover, il titolo, ha a che fare con il fatto che molte delle epidemie o patologie che vengono qui descritte non sono, come ci spiega l'autore, una serie di sfortunate coincidenze che ci hanno colpito per motivi imperscrutabili. Non sono calamità naturali, dolorosi accidenti alla pari di terremoti, eruzioni vulcaniche e meteoriti di cui si possono forse minimizzare le conseguenze, ma che rimangono inevitabili. No, purtroppo, spiega l'autore, molto spesso la diffusione di questi virus deriva da errori, da scelte, da decisioni dell'uomo, e per almeno tre ragioni che così sintetizza. Primo, le attività umane sono causa della disintegrazione, e non ho scelto questa parola a caso, dice l'autore, di vari ecosistemi a un tasso che ha le caratteristiche del cataclisma. Secondo, questi cataclismi fanno sì che mettano in circolo milioni di specie che sono in gran parte sconosciute alla scienza moderna, non classificate o a malapena etichettate, poco comprese. E tra questi milioni di specie ignote ci sono virus, batteri, funghi e altri organismi, molti dei quali parassiti. Addirittura si usa oggi il termine virosfera, ci ricorda l'autore, per identificare un universo di viventi che probabilmente fa impallidire per dimensione ogni altro gruppo. E poi la terza ragione: oggi la distruzione degli ecosistemi sembra avere tra le sue conseguenze la sempre più frequente comparsa di patogeni in ambiti più vasti di quelli originari. E qui appunto Quellman ci spiega il meccanismo di questa diffusione. Quindi c'è una forte correlazione tra queste malattie e molti comportamenti umani. Ma il viaggio di Quellman è veramente affascinante, perché si tratta di un reportage in molte zone del pianeta, un reportage che ci descrive le situazioni dalle quali poi appunto esplodono le epidemie. E naturalmente si parla di Ebola, che è conosciuta fin dal 1986, che si è manifestata in quattro varianti, un'infezione insidiosa anche perché capace di sparire per anni e poi ricomparire drammaticamente. E l'autore spiega così il comportamento del virus. Finora le epidemie sono state circoscritte e hanno avuto termine. In ciascuna occasione il virus ha smesso di replicarsi, giungendo a un punto morto. Perciò attente misure di prevenzione in genere sono sufficienti a fermarli. A volte basta davvero poco per spingere il virus in un vicolo cieco, e chissà quante volte è successo. E speriamo naturalmente che queste osservazioni si realizzino. Veniamo ad altri temi di attualità, forse meno terrorizzanti. Vi segnalo innanzitutto una mostra che è in corso a Genova, una mostra su Frida Kahlo, sarà aperta fino all'8 febbraio del 2015, e che associa alla pittrice l'altro grande artista che fu suo compagno, cioè Diego Rivera. La mostra si svolge a Palazzo Ducale, curata da Helga Pringitz-Poda, il catalogo è Schirà, e i due pittori troviamo insieme addirittura in copertina del volume di Elena del Drago, C'eravamo tanto amati, le coppie dell'arte del Novecento, pubblicato da Electra, 192 pagine, 16,90 euro. Qui troviamo tante coppie illustri che hanno dato spesso vita a relazioni complesse. La creatività di coppia, spiega l'autrice, infatti è vitale quanto ambigua. Nello studio condiviso si vivono storie romantiche fatte di passione, dialogo e soprattutto grande competizione, esplicita o meno. E il Novecento, conclude, segnato da incontri fatali, dalle conseguenze non ancora sufficientemente indagate. La storia sono tante, da Rodin a Marina Abramovic, e una delle più tempestose è proprio quella di Frida Kahlo con Diego Rivera, con il quale ebbe una relazione complicata anche dalle convenzioni dell'epoca, come spiegano queste righe che adesso vi propongo. A Rivera era lasciato il ruolo dell'artista professionista, che aveva dipinto sin dall'infanzia e considerava la pittura la sua unica occupazione, mentre a Kahlo il ruolo di pittrice non era riconosciuto socialmente. Era una necessità primaria, evidentemente, la sua ragione di vita, ma veniva presentata come un passatempo, un'attività secondaria. Anche perché, probabilmente, il rapporto con Diego sarebbe stato altrimenti impossibile. Anche le dimensioni dei rispettivi lavori pittorici sono significative in questo senso. Da una parte le pitture immense di Diego, che escono dalla cornice per occupare intere pareti, intere stanze. Dall'altra, quelle ridotte di Frida, portatili, ex voto personalissimi, in cui la tensione religiosa è sostituita da quella politica e i due sentimenti si sovrappongono. Differenze incolmabili, dunque, sottolineate dal passaggio degli anni. Eppure, proprio quando un riavvicinamento sembrava impossibile, possibile fu la grande storia a riunire ancora una volta Diego e Frida. Nel 1939, dopo diversi tentativi, Lev Trotsky venne assassinato nel suo ufficio da un emissario di Stalin. Come amici e sodali dell'esule russo, entrambi vennero coinvolti nelle indagini che seguirono. Rivera decise di tornare a San Francisco e dopo poco, spinta dal suo medico curante, anche Frida giunse nella città americana. Qui si sposarono una seconda volta l'8 dicembre 1940, giorno del 45esimo compleanno di Diego, tra molte promesse e altrettante speranze. Quest'anno ricorre anche il 450esimo anniversario della morte di Michelangelo, che troviamo giovanissimo in un romanzo di Daniela Piazza, L'Enigma Michelangelo, è pubblicato da Rizzoli, 422 pagine, 18 euro. Parliamo di un Michelangelo poco meno che ventenne, che a Bologna è già un mito per una statua che sta realizzando, il Cupido Dormiente, che diverrà l'oggetto del desiderio di molti tra i più potenti collezionisti dell'epoca, disposti a tutto pur di impossessarsi dell'opera. E qui nel libro troviamo la storia di questi complotti che ci avvicinano a uno dei geni dell'umanità di cui seguiamo qui la carriera fino ai primi anni del Cinquecento. Un artista che gli fu contemporaneo, un grandissimo artista del Rinascimento, questo nordico, fu Albrecht Dürer, che visse tra il 1471 e il 1528 e che troviamo nel libro di un noto storico dell'arte, Stefano Zuffi. Il libro si intitola Apocalisse con figure, pubblicato da Guanda, 220 pagine, 17 euro. Qui troviamo un artista invece già affermato, a differenza del Michelangelo giovane, che intorno al 1520, quando la sua carriera è al culmine, decide di lasciare la sua Norimberga, dove abita, per raggiungere Anversa, che si sta qualificando come una delle più importanti città d'Europa. Dürer è stanco, rievoca il passato, compreso l'incontro fugace con Leonardo a Milano, riflette sulla bellezza, osserva i grandi cambiamenti in corso a partire dalla riforma protestante alla quale poi aderirà. Ultimi arrivi. Continua la pubblicazione dei romanzi di Simenon, l'ultimo volume uscito da Adelphi è il quinto, si intitola I Maigret, questa serie, e qui troviamo La Casa del Giudice, Cecilie è morta, firmato Picpus, Félicie, L'Ispettore Cador, 708 pagine, 16,90 euro, il libro è curato da Ena Marchi e Giorgio Pinotti. Di ambiente ugualmente francese il romanzo di Antonella Boralevi, La locanda delle occasioni perdute, pubblicato da Rizzoli, 216 pagine, 18 euro. Lei è una nota scrittrice, sceneggiatrice, giornalista. La trama rappresenta un ritorno nel passato che ci restituisce il fascino della Parigi più segreta, che diventa lo specchio dei sogni di Mirella, la protagonista. E infine vi segnalo il libro di un'altra firma famosa, cioè Daria Bignardi, L'amore che ti meriti, è pubblicato da Mondadori, 250 pagine, 18 euro. Questa è una storia di famiglia tra Bologna e Ferrara che scandaglia il rapporto complesso tra due fratelli, di cui uno scivolato nell'inferno della droga. La figlia della sorella cercherà di ricostruire il mistero di questo zio scomparso in un percorso che diventa anche la storia dei nostri anni Ottanta. E a questo punto il confettino. Parlando di Dürer abbiamo accennato a Leonardo e allora ricordo Il tesoro di Leonardo di Massimo Polidoro, pubblicato da PM, 288 pagine, 16 euro, un libro in cui si parla di un'autentica caccia al tesoro, quella organizzata da Leo e Cecilia a Milano, sulle tracce della lunga permanenza di Leonardo e di un misterioso tesoro che il genio vi avrebbe lasciato. E con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, e Roberto Scaltritti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola di 24 .it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.